Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Amici della notte. Ci siamo tornati in diretta, come giustamente diceva lui, gli amici della notte, perché in questo momento stiamo vivendo un altro sabato notte, ma dovete sapere che c'è anche la possibilità di risentirsi in ogni momento della giornata durante la settimana, quindi salutiamo anche gli amici del giorno, perché potrebbe essere pieno giorno in questo momento, yes. E anche gli amici, yes, del pomeriggio, che, yes, sono quelli più indaffarati. Ciao amici del pomeriggio, che state siamo lavorando, noi stiamo qui, non stiamo lavorando. È giusto, piace l'house. Anche pomeriggio piace l'house, assolutamente. Siete sempre in collegamento su Ristorato Convento, web radio del convento di Nonato del Garda, e noi siamo sempre in compagnia di svariati ospiti, svariati festeggiati in questo lungo sabato sera, e siamo qui con loro per condividere, insomma, un momento, speriamo, da ricordare, e soprattutto per capire cosa li ha portati qui da noi e qual è il motivo della loro festa. Abbiamo qui un penso uomo, perché il costume potrebbe anche trarci in inganno, ma ci conferma le sue generalità maschili. Allora, esatto, però ci sono degli elementi che ci fanno sorgere dei dei dubbi, che è giusto che sorgano. Confermo, amico vocalist, confermo. Ok, allora, come ti chiami? Pier Giuseppe, benissimo. Da dove vieni? Per gli amici Pigi, però, da quanto sentivo, Provincia di Bergamo. E yes, questa confermo. Sera Confermo anche lui, c'è il notaio. Confermo. C'è il notaio che deve giustamente mettere a verbale tutto quello che dice per certificare che sia vero. E cosa ti porta qui da noi questa sera? Cosa stai festeggiando? Il Dio celibato. Ok, il tuo Dio celibato. Sì. Chi è la futura sposa e quando vi sposerete? Si chiama Anna, il 20 settembre. Ma cazzo, non è mia moglie? No, è la mia futura, spero. Ah, ok. La tua, Stefi. Ho sbagliato nome. Hai sbagliato nome? Ok, no. Sì. Pensavo che per un attimo ci sarebbe stato un litigio in diretta, una amicizia rovinata, no? Invece no. Non confermo. Esatto. Ognuno, si tenga le mogli che ha scelto, e non mischiamo le mogli, perché sennò creiamo del casino. E a proposito di amici, di mogli, non lo so se anche gli altri sono sposati. Chi c'è qui con te questa sera? Chi ti ha accompagnato in questa festa? Un gruppo di amici. Stecca, Bona, Luca. Leggi la maglietta. Altro Luca, Mario. Leggi la maglietta. Gli amici del C, il PG detto C, detto C. Perché non si può dire. Diciamo sempre. Che questo C è dovuto al fatto che ha scelto di sposarsi, e quindi c'è una parola che lo rappresenta per il fatto che ha scelto di sposarsi. Secondo te, che finisce con one? E come mai secondo te loro sono così contrari a questa tua scelta? Perché è un C. Aspetta, Fisi, è un C. Ecco, è un C. E beh, ma vogliamo capire anche il motivo di questa definizione? Prego. Sai cosa ti aspetta? No, devi dirlo tu, sei tu. Sai cosa ti aspetta? Sai che ti aspetteranno anni di purgatorio. Su quello c'hai ragione. Però si potrebbe anche stare all'inferno, quindi comunque il purgatorio c'è sempre di peggio, è comunque una situazione migliore dell'inferno. Confermo. Chi sta peggio, vuol dire. Sì, vai Pigi, vai tranquillo, che tutto quello che vivrai d'ora in poi è successo. Quindi sembra stavo cercando di capire se ti stanno comunque appoggiando nella scelta oppure no. Sì. Noi appoggiamo tanto. Appoggiano tanto. Noi siamo famosi per l'appoggio posteriore. Per l'appoggio. Noi siamo famosi. Guarda, da adesso in poi lo appoggeranno da dietro. Ah, ok. Quindi detto questo, dopo questa formazione siete simpaticissimi, molto belli, ma non uscirei mai con voi, visto che siete, insomma, avesse questo vizietto dell'appoggio. Potresti uscire con noi e stare ultimo. Giusto. C'è anche quella posizione, esatto. C'è chi vuole fare la locomotiva. Esatto, ognuno ha il suo ruolo all'interno del gruppo. Tu, Mario, pensa che lo sposo prima faceva ciuf ciuf. Mario fa l'ultimo. Mario fa l'ultimo, infatti è quello che ancora non si è sposato, esatto. E che per ora è rimane single. Elevato. È l'unico single, è single, quindi fa l'ultimo, come è giusto che sia. E niente, quindi avete questa passione in comune per la locomotiva. E questa gioia, ma... non so come mai è nata questa cosa, però non lo so, lui ha detto che i professionisti dell'appoggio è nata da là, esatto, è nata da là. No, ma mi preoccupa il fatto che io ho dietro lui, vedi, mettete in parte a proposito di locomotiva. Esatto, bene, meglio sempre controllare gli spazi. Lo chiamiamo Rocco ed è dietro di me. Ah sì, tra l'altro devo preoccupare? No, io al di là di quello ho sentito un rumore di patatina che scrocchiava. No, io mi preoccuperei del fatto che sia molto distante da te, quindi comunque vuol dire che anche tu immagina, delle buone possibilità. Quindi io spererei che si metta un attimo da parte, perché sento un po' di fastidio, sì, di fastidio, sì, sì, sì. E non è prurito, e non è prurito. No, e quello che volevo anche sapere alla fine è come mai questa scelta di, come dire, abbigliare il vostro amico con come fosse un guardaspiaggia. Cioè, o meglio, faccio una domanda che, come dire, l'uomo potrà capire. Solitamente questo tipo di abbigliamento ricorda una ragazza bionda, e voi invece me l'avete portato moro. Quindi questo crea un attimino di destabilizza un attimo, perché lo volevo capire. È intinta col sotto. Sì. Ah, ecco perché. Noi siamo ragazzi alla moda, quindi non abbiamo voluto. È Carmen Electra. È per quello. Ok. Vedi che non sono aggiornato, evidentemente. Tra l'altro ci ricorda molto la, come si chiama, la zia Coriandoli. La signora Coriandoli. Ah, è vero, la signora Coriandoli, è vero. Rolando. Anche. Vedi, stanno uscendo delle belle cose, però sulla signorina Coriandoli è vero, c'è un po' di somiglianza con la signorina Coriandoli. Anche perché noi ce ne siamo sparate talmente tante con Pamela Anderson vestita così, che quindi non ce la ricordiamo più com'è. Ah, oh, certo. Col fucile. Attiro il piattello. Diciamo, esatto, che per sfogare, diciamo, la rabbia e l'invidia verso chi poteva permettersi Pamela Anderson, andava al piro piattello e insomma sparava per... E a distanza di anni ci siamo trovati lui. Bene, diciamo che quindi l'evoluzione della specie in questo caso è andata in peggio, perché soprattutto di solito migliorava, in questo caso era messo prima. Esatto, era meglio prima. Però li volete bene lo stesso. Sì, nonostante tutto. Molto bene lo stesso. Molto bene lo stesso, bene, come giusto che sia. Allora, Pigi, vuoi fare un saluto? Vuoi dire qualcosa? Vai, Pigi! Sì, dai, fai una dichiarazione a tutti i nostri amici ascoltatori. Vai, Pigi, estate 2019. No, ringrazio i ragazzi per questa bella serata. Non me l'aspettavo, ma non faccio una super mega sorpresa. E grazie. La partita che dovevamo andare allo stadio. Esatto, Milan-Brescia. Quindi poi avete virato, o era una scusa? Sì. Esatto. Ah, ok. Uguale. Aspetta, però bisogna capire se PG ha gradito la opzione 2 o era meglio la 1. Esatto. Ah, ok. Va bene, tutto. Beh, infatti, se ti fava Brescia era un problema, perché avrebbe visto la squadra perdere. Vabbè, che col Milan diciamo che lo puoi mettere in conto. Rosso nero è sempre la vita. No, dico, se sei bresciano oggi, di metti in conto. Comunque col Milan forse difficile portarla a casa. Bene, dai, allora sono felice che comunque la serata sia stata di tuo gradimento, nonostante ci fosse un'alternativa comunque interessante, perché insomma vedere San Siro è sempre una bella emozione. Allora, grazie a voi per avercelo portato qui, e grazie a te, Pigi, per aver condiviso la tua festa, la tua serata importante insieme a noi. Buon divertimento ancora, ragazzi, c'è ancora una mezz'oretta da ballare, da passare insieme, e divertitevi e passate un bellissimo sabato sera. Grazie ancora, ciao! Grazie, I love you, benvenuti, estate.